Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora la giornata economico-finanziaria, oggi molto molto italiana, anche se avremo modo di parlare anche della Francia, o meglio di quella che alcuni definiscono la calata dei francesi in Italia, dopo Bulgari, Parmalat, adesso anche Edison, ora il marchio Brioni. Insomma, mentre il paese litiga, si interroga, discute, si spacca in fazioni, sembra un po' la storia del nostro XVI e anche XV secolo, arrivano gli stranieri, in questo caso appunto non stiamo parlando di Francesco II ma di grandi gruppi bancari, ma non solo, anche industriali francesi. Al di là di questo tema e del fatto che cercheremo di avere ospite l'imprenditore che con il suo appello venerdì scorso sul Corriere della Sera ha detto compriamoci il nostro debito, se ogni italiano comprasse 4.500 euro di BOTO, CCT o BTP avremo risolto il problema per il 2012 del rifinanziamento del debito, sono infatti circa 270 miliardi da rifinanziare. E cercheremo di parlare con lui perché ha avuto un successo incredibile, il numero uno di banche, delle principali banche italiane, Passera, Ghizzoni, ma anche politici, tutti si sono affrettati a dire che è un'idea giusta, che bisogna comprare il nostro debito. Ma è chiaro che l'evento principale che riguarda anche il mercato è quello che è successo alla Camera. Allora, mi dispiace se c'è qualcuno che già pensa di avere una lettura corretta, guardare i mercati, la lettura corretta, la lettura univoca non c'è, nel senso che all'inizio c'era stato un recupero della borsa dopo il voto e una riduzione degli spread. Adesso però, io lo leggo solo come un mercato attendista che cerca di capire cosa farà il Presidente del Consiglio, che è ancora riunito con i vertici del governo. Adesso invece il mercato ha preso un po' a calare, guadagna l'1%, Parigi più 1,36%, Francoforte più 0,70%, così come gli spread sono stabilmente a 485 punti, praticamente vicinissimi al record toccato questa mattina, proprio in apertura di giornata, 495 punti, con un rendimento teorico del BTP al 6,74%. Ora, spiegavamo ieri che se noi dovessimo andare a indebitarci l'anno prossimo, cioè a trovare finanziatori per il nostro debito, con un rendimento dei BTP a 10 anni al 7%, questo costerebbe quasi 9 miliardi di euro in più, solo di interessi in più al paese, e vuol dire due volte l'intero effetto dell'aumento dell'IVA. L'aumento dell'IVA vale 4 miliardi, quindi perderemmo due volte quello che abbiamo guadagnato con l'aumento dell'IVA dal 20 al 21%. Per la precisione, l'anno prossimo dovremo trovare finanziatori per 307 miliardi di titoli in scadenza. Però, ripeto, l'appello dell'imprenditore, che cosa rende così tanto come un BTP adesso? Compri il tuo debito, salvi il paese, dimostri di avere un'affezione nei confronti del paese e fai sì che non ci guadagnino con i nostri soldi investitori esteri. Andremo a vedere che cosa, sì, intanto se l'ha comprato, perché doveva comprare 20.000 euro di obbligazioni domani, ieri, scusatemi. Ancora, come vanno i titoi? Molto bene alcuni bancari oggi, Intesa San Paolo quasi il 5% di rialzo, Tod's invece più 2,5%, Unicred più 2,20%, Saipem più 2,30%, Luxottica più 2,1%, Pirelli pure, Eni più 52% e anche le Generali. Perde Mediaset, qui la lettura invece è molto netta, della borsa, meno 3,25% Mediaset, il peggior titolo sul listino tra quelle maggiore capitalizzazione. L'Automatica meno 2,2% come Fondiaria Assai, l'1,70% lo perde Atlantia e anche in pregilo l'1,1% lo perde Snam Rete Gas, ma anche la Popolare Emilia Romagna e la Banca Popolare di Milano, euro di pochissimo sotto quota 1,38 1,37,90. Allora, 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora subito con le notizie in breve. sullo spread, vedo molti messaggi. Diamo qualche aggiornamento prima, poi torniamo sullo spread. Allora, il petrolio è in rialzo, New York a $96,5 al barile. Avete sentito dai nostri GR invece gestori di benzina spaccati? Lo sciopero lo fanno solo Fegica e Faib. E il sottosegretario Saglia ha definito lo sciopero un atto di irresponsabilità ingiustificato. La crisi 2.0, come l'abbiamo chiamata. Allora, in Grecia è stato raggiunto l'accordo sul nuovo premier, che sarà Lucas Papademos. Tra l'altro si sono messi d'accordo sia Papandreou che il leader dell'opposizione Samaras. E non sarà un caso, ma l'asta, quindi il collocamento oggi di 1,3 miliardi di obbligazioni greche, è andata benissimo. Praticamente a 6 mesi il rendimento al 4,90%, buona la domanda, 2 volte l'offerta, per cui insomma tiene la Grecia e i mercati premiano obiettivamente il fatto che abbia trovato un accordo in tempo rapidissimo sul cambio del leader di governo. Fatemi tornare sul punto di ieri. Allora, ieri ci siamo limitati a dire 2 cose che a mio avviso non possono essere attaccate, comunque fatelo. La prima è che dire che se va via Berlusconi e cade il governo, c'è un nuovo governo tecnico, tutto è risolto, è una balla. I problemi restano, le riforme da fare restano, il reperimento dei soldi per ridurre il nostro deficit e il debito resta, l'ipotesi di una patrimoniale, di un prelievo forzoso sui conti correnti, dell'aumento dell'età pensionabile, insomma le cose di cui abbiamo detto in queste settimane e mesi restano tutte sul tavolo, anzi. E questo è, per aver detto questo ci siamo beccati dei filo berlusconiani, e vabbè. Abbiamo però anche detto, e poi la chiudo su questo tema, che la lettura di ieri della reazione del mercato all'ipotesi che Berlusconi se ne stesse andando era inequivocabile. Cioè, come Giuliano Ferrara ha scritto sul Foglio online che Berlusconi a ore avrebbe dato le sue dimissioni, lo spread si è abbassato di 30 punti, viaggiava di quasi 30 punti, viaggiava a 493, è sceso a 470, la borsa che perdeva è andata in positivo e anche i CDS, i credit default swaps, sono migliorati. Quindi su questo è inutile discutere tanto, le borse ieri hanno dato questo segnale e adesso vedremo di capire cosa succede. Milano sta perdendo tutti i guadagni, probabilmente alcune dichiarazioni del fatto che non si sa ancora se Berlusconi salirà al Quirinale, che cosa farà il Presidente del Consiglio, rigettano i mercati delle incertezze, quindi si torna a vendere Italia, molto semplice. Intanto lo spread, ormai siamo tranquilli, nel senso, si fa per dire, perché qua viaggiamo stabilmente con lo spread a 480 punti, cioè la differenza tra quanto costa a noi rispetto alla Germania indebitarci è a 480 punti, e diciamo tutto bene così. In realtà no, ricordo, oltre che costarci quasi 9 miliardi in più andare a cercare finanziatori del nostro debito con questi livelli di spread, ricordo che insomma solo un mese fa o 2 mesi fa, se avessimo detto arriviamo a 500 punti, ci saremmo stracciati le vesti, e che lo spread a 500 punti non sia sostenibile lo ha sostenuto oggi anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Con uno spread BTP Bund a 500 basis point noi non possiamo andare avanti a lungo. Uno spread di 500 basis point tra BTP e Bund vuol dire una cosa molto chiara, non è una, come dire, un numero per speculatore finanziario, per chi si occupa di finanza, è un numero molto chiaro che evidenzia una mancata credibilità del nostro paese sui mercati finanziari, è un numero che significa molto chiaramente che il nostro sistema bancario farà fa già e farà sempre di più fatica a finanziarsi sui mercati. Se lo farà a tassi molto alti. Voi capite che se i nostri titoli di Stato richiedono agli investitori, cioè gli investitori per sottoscrivere i nostri titoli di Stato italiani richiedono un rendimento attorno al 6%, immaginate a quale tasso le banche italiane si possono finanziare e soprattutto immaginate a quale tasso daranno i soldi alle imprese, anche alle imprese sane, forti, capaci, che vogliono fare investimenti come quelle che sono qui presenti. Allora, una situazione di questo tipo, se non verrà risolta velocemente, significa un credit crunch, significa un blocco ulteriore dell'economia che noi non ci meritiamo, che questo paese non può avere, e quindi io credo che sia assolutamente fondamentale che non sta a me dire, non sta a Confindustria a dire quali sono le soluzioni che la politica deve prendere, ognuno deve fare il proprio mestiere, però quello che io voglio dire con grande chiarezza è che il paese non si merita di stare in una situazione di questo tipo. Il paese non si merita questa situazione, lo ha ribadito poi in un altro passaggio sempre Emma Marcegaglia: non siamo né la Grecia né la Spagna. Noi non siamo né la Grecia, non siamo neanche la Spagna, siamo un paese forte, siamo un paese che ha un'eccellenza imprenditoriale che ci è riconosciuta da tutto il mondo, siamo un paese che ha marchi straordinari che vendiamo in tutto il mondo, che fanno grande l'immagine dell'Italia. Allora non è più sopportabile stare in una condizione di questo tipo, dove veniamo presi in giri da primi ministri che certamente non hanno il diritto di fare questo, ma certamente noi dobbiamo uscire da questa condizione di scarsa credibilità, di situazione in cui siamo un paese commissariato e questo non ce lo meritiamo, e allora sono necessarie in queste ore, in questi giorni, decisioni chiare, evidenti. L'impresa italiana è disposta, vuole continuare a fare la propria parte, ma non può più stare in una condizione in cui la nostra competitività cala continuamente. Chiediamo, vogliamo, esigiamo delle risposte, noi siamo pronti a lavorare come abbiamo sempre fatto, con grande forza, con grande determinazione, ma vogliamo un paese che sia un paese capace di fare le riforme, che sia un paese capace di mantenere le promesse che ha fatto all'Unione Europea, al Fondo Monetario, a tutti gli istituti principali internazionali. Vogliamo tornare ad essere un paese forte, che incide sulle scelte europee, che incide sulle scelte internazionali, un paese non sfiduciato dai mercati, non sfiduciato dalle istituzioni internazionali, un paese che possa veramente dare ai propri imprenditori la capacità di fare innovazione, di vendere in tutto il mondo e soprattutto di creare benessere e occupazione, che è quello che noi vogliamo continuare a fare. Così appunto Emma Marcegaglia. Allora, vedo che c'è chi scrive: guardi che la borsa cala perché Wall Street è già in negativo. Sì, però Parigi continua a fare più 1,30%, Milano è a più 0,60%. Dopodiché, ripeto, la prima lettura secondo me resta più corretta. Non c'è un'indicazione chiara dal mercato, c'è una borsa che è tornata sotto i minimi, lo spread, guardiamo più lo spread della borsa se volete, è rimasto a 485 punti, 483 punti, per cui non si è mosso, segnale, a mio avviso, modestissimo, che il mercato cerca ancora di capire quali saranno le evoluzioni a breve, visto che sicuramente il governo non ha la maggioranza alla Camera, però Berlusconi, riunito con il ministro Tremonti, col segretario del PDL Alfano, con il ministro Brunetta, con Gianni Letta, probabilmente attende anche il mercato. Giro però questa domanda nel ringraziare intanto Anna Migliorati, che ci sta aggiornando da quando è arrivato il voto sulle novità parlamentari. Buonasera di nuovo, Anna. Buonasera. Giro questa domanda però a Guido Gentili, ex direttore nonché attualmente editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, Guido. Buonasera a voi. Una lettura di mercati io la interpreto così, cioè, però vorrei capire se anche tu la vedi come atto dialettico e attendista, chiamiamolo così. Sì, siamo sicuramente in una fase di attesa che può durare anche pochissimo tempo, nel senso che sicuramente il Presidente del Consiglio Berlusconi dovrà confrontarsi con il Presidente della Repubblica, quindi io immagino a tempi ravvicinatissimi un confronto al Quirinale sul da farsi, sulla scelta che farà Berlusconi, io dovessi fare azzardare una previsione tra le varie ipotesi, cioè quella di indicare un nuovo nome del centrodestra come premier, quella di dimettersi e quella di attendere la prossima settimana, io sarei su questa terza ipotesi, cioè nel senso di confrontarsi in Parlamento sul pacchetto, chiamiamolo Europa, quindi sul famoso maxi emendamento alla legge di stabilità, e su quello probabilmente, se i numeri verranno confermati, la tendenza di oggi verrà confermato, cadere diciamo sul pacchetto Europa, il che però ovviamente questa è la strada che porterebbe poi più facilmente dritti verso le elezioni. Questo secondo me è lo scenario. Cioè, dei tre scenari possibili, se ho ben capito, tu dici è probabile che fatta la riunione con i capigruppi, parlato con, chiaramente parlerà con il Presidente della Repubblica, certo, perché quasi è politicamente un atto dovuto a questo punto. Esatto. Però Berlusconi potrebbe dire, va bene, portiamo il testo della lettera a Bruxelles, quella famosa, no? Il maxi emendamento che deve recepire quanto abbiamo promesso a Bruxelles, lo portiamo alla Camera, mettiamo la fiducia e a quel punto vediamo se sono sempre 308 e quindi il governo non c'è più, oppure se tornano a essere 316. Leggo... Leggo una cosa dell'Ansa, la leggo assieme a voi. Praticamente, mentre dopo il voto, l'Ansa ha fotografato il foglietto su cui Berlusconi stava prendendo nota, una minuta, e ha scritto: prendo atto, rassegno le dimissioni. È una cosa che scrive Berlusconi sul foglietto. E poi ancora c'è un appunto, è scritto ribaltone, c'è scritto Presidente della Repubblica, e poi voto, e poi 308 meno 8 traditori. Questo lo riporta l'Ansa, che ha fotografato, diciamo, il foglietto su cui scriveva Berlusconi. Guido, quindi l'ipotesi a questo punto, la settimana prossima si va alla fiducia, e quindi sarebbe l'ipotesi Prodi, cioè che il governo cade per la sfiducia alla Camera. Sì, esattamente, sarebbe questo, e sarebbe anche un modo per verificare poi, tra l'altro indirettamente, se diciamo l'opposizione converge o ha intenzione di convergere su alcune misure molto drastiche che ci ha chiesto la famosa lettera della Banca Centrale Europea. Quindi si potrebbe contemporaneamente verificare se c'è la possibilità di fare un governo diciamo di larghe intese su questo terreno, no? Quindi se non si va al muro a muro e se l'opposizione decide di accettare il confronto su questo. Allora, tra i tanti messaggi, adesso ne leggerò anche a qualcuno, ce n'è uno che mi fa in particolar modo piacere, perché dice: dottor Barisoni, facci i complimenti, siamo un gruppo di precari, a tutta la redazione di Radio 24 per la completezza delle informazioni che ci state fornendo in un momento così delicato per la nostra nazione. Grazie, e giro i complimenti ai colleghi della redazione. Allora, Guido Gentili, al di là di come uno la possa pensare su Berlusconi, sulla tenuta della maggioranza, però... non è corretto che uno che invece che salire stasera al Quirinale e rassegnare le dimissioni, ammesso e non concesso che Berlusconi non voglia fare, che uno, che in capo di governo vada a cercare di far passare con il maxi emendamento quelle che sono state le promesse fatte all'Europa, sostanzialmente, e poi a quel punto se va sotto cade, o se no la maggioranza magari lo vota e poi si sfascia, non lo so, ma intanto tenti questo passaggio. Infatti mi pare che, tra l'altro, le ultime notizie che davano i colleghi mi sembrano andare in questa direzione, cioè nell'ipotesi che salga certamente al Quirinale, ma che sia intenzionato a fare un passaggio parlamentare la prossima settimana, che dovrebbe essere appunto quello che dicevamo prima, e quindi diciamo votare su un maxi emendamento che contiene le norme di attuazione degli impegni che sono stati presi in Europa, e su questo decidere le sorti del governo. Credo che questo sia un passaggio sostanzialmente corretto da un punto di vista istituzionale. Ecco, ti leggo cosa ha appena dichiarato il commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn al termine del vertice Ecofin, a cui non ha partecipato il ministro Tremonti, che oggi è rientrato frettolosamente in Italia, non ha nemmeno fatto la conferenza stampa delle 15. Ha detto Olli Rehn: le risposte sulle misure da attuare in Italia ci devono arrivare il prima possibile con questo governo o con un altro. Quindi risposte dall'Italia subito da qualunque governo, perché la situazione in Italia ci preoccupa molto e domani inizia la missione sia del Fondo Monetario che della Commissione Europea. Parole allarmate. Parole allarmate, ma parole che rispecchiano esattamente lo stato della situazione. Quindi anche ieri c'è stata le dichiarazioni della Commissione Europea sul fatto che l'Europa non chiede un altro governo, chiede che il governo in carica, questo o un altro, prendano le decisioni che sono state concordate a livello europeo, e da qui non si sfugge. E quindi è una questione, è una corsa contro il tempo, e credo che ormai da questo punto di vista sapere se l'Italia o no approva questo piano probabilmente lo sapremo la prossima settimana con un voto parlamentare a cui è legata la sopravvivenza di questo governo. E nel frattempo, sempre l'Iren poco fa ha dichiarato lo spread dell'Italia è drammatico, siamo vicinissimi ai 500 punti oggi, nuovo record a 495 punti. E fai bene a ricordare, Guido, che insomma, quello che chiede l'Europa non è un governo di centrodestra, un governo tecnico, un governo di centrosinistra, ma chiede semplicemente che ci sia la forza nel governo di fare quello che è stato promesso che avremmo fatto all'Europa, qualunque dovesse essere il colore del governo. Grazie editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. A voi. Limitate, se ci riuscite, il più possibile i commenti di carattere politico. Restiamo sulla palla, restiamo sulla situazione in questo momento. Come ha chiuso la borsa? È il prossimo tema, chiaramente più 0,74%, vi daremo un aggiornamento anche sugli spread. E poi lo shopping francese in Italia, che non è, insomma, noi siamo nazionalisti, giusto, cioè, tifiamo Italia sempre, nello sport come fuori dallo sport. Però in un libero mercato chi ha i soldi li mette e acquisisce le aziende. Il problema è che qui ormai da Parmalat, Bulgari, all'Italia, vedremo. E Edison, oggi si è aggiunto anche Brioni, tutto qui. Insomma, mentre noi discutiamo qualcuno fa affari. Più 1,28% Parigi, più 0,55% Francoforte, più 1,12% Londra, l'America meno 0,40%. E allora il tempo della borsa. Ancora meno 2,94% media, 7 lì, ripeto, c'è un'indicazione netta del mercato sul voto, non c'è sull'andamento dell'indice. Inter San Paolo più 3,5%, TODS più 2,50%, Luxottica più 2,20%, come Unicredito, Saipem più 2%, ST Microelectronics più 1,5% come Pirelli. E come sempre il commento lo facciamo con Radio Cori, Sole 24 Ore, anche per parlare di spread oggi. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Allora, io dico, l'abbiamo già detto con Guido Gentili, difficile capire come si è mosso il mercato, molto tendista la borsa di fronte al voto, lo spread è sempre fermo a 385, mi confermi? Lo spread è salito poco fa fino a 496 punti base. 485 vuol dire, 496 certo. E adesso ha rallentato un po' il passo. Ovviamente, come hai detto tu, c'è grandissima volatilità, è difficile interpretare anche i singoli movimenti. Di sicuro sul finale Piazza Affari si è sgonfiata. La cosa interessante è che anche guardando le agenzie di tutto il mondo, praticamente tutti i mercati mondiali, Wall Street compresa, erano con gli occhi puntati sia su Piazza Affari sia sull'esito della votazione in Italia, cosa che in genere non succede, anzi semmai è il contrario, Piazza Affari che va al traino di altre borse mondiali, a dimostrazione che ovviamente la situazione è veramente critica e sotto il controllo di tutti i mercati mondiali. Eh sì, tra l'altro c'è una notizia appena battuta che ClearNet, che è l'organizzazione al mondo che regola gli scambi dei titoli, potrebbe decidere di aumentare i margini di garanzia sui BTP italiani. Sono voci che circolano dopo che lo spread appunto è arrivato a 490 punti. Questo vorrebbe dire che detenere BTP costerebbe costerebbe di più. Comunque, dicevo, difficile capire la reazione, anche se c'è stato un indebolimento della borsa, molto più facile capire invece l'effetto sul titolo Mediaset. Mediaset ha perso quasi il 3%, meno 2,94%, ovviamente paga l'incertezza politica, anche nella stampa in diversi quotidiani si punta l'indice sul fatto che la società potrebbe risentire ovviamente di un avvicendamento politico. Al di là di questo comunque c'è anche l'attesa per i conti del trimestre e in aggiunta un tassello in più nella vicenda di Endemol. Abbiamo visto infatti che la scorsa settimana ha presentato un'offerta non vincolante il gruppo Time Warner, quest'oggi secondo indiscrezioni sarebbe interessato all'azienda che produce programmi televisivi anche il gruppo tedesco RTI. A questo punto la partita entra nel vivo, bisognerà vedere quali saranno le mosse di Mediaset, che ricordiamo controlla il 33% del capitale, che starebbe preparando un'offerta insieme a Clessidra. Di sicuro se vorrà preparare l'offerta il prezzo potrebbe salire, ecco perché il mercato sta penalizzando le azioni di Mediaset e si teme anche un eventuale sborso oltre le attese per la stessa Endemol, anche se ovviamente è tutto da vedere. E allora Micheli, dicevamo di Safilo ma anche di Finmeccanica. Sì, Safilo ovviamente sotto il centro sotto i riflettori, visto che ieri la società ha pubblicato i conti del trimestre. I titoli oggi hanno perso il 7,7%, i conti hanno mostrato una debolezza, ma comunque erano abbastanza in linea con le attese degli analisti, anche se comunque il fatturato è calato del 3,2% e l'EBITDA dell'1,7%. Fa tremare soprattutto il fatto che non siano state date indicazioni sul rinnovo della licenza con Armani, di cui tanto si è parlato anche nel corso delle ultime settimane. La licenza scadrà a fine 2012 e a questo punto, non essendo data alcuna indicazione, il mercato inizia a scommettere che effettivamente Armani non rinnoverà il contratto e quindi questo andrebbe a pesare fortemente sull'andamento del fatturato dell'azienda veneta, ecco perché i titoli sono scivolati così bruscamente. Per quanto riguarda invece Finmeccanica, oggi è stata una seduta volatile un po' come per tutta la borsa. In mattinata si può dire che i titoli erano ben impostati, erano in rialzo, poi invece hanno chiuso in calo dello 0,7%, pagando anche in questo caso l'incertezza politica. Ad ogni modo i riflettori rimangono accesi, visto che giovedì si terrà il consiglio di amministrazione della società e chissà che non si decida anche in merito a Ansaldo Brede e Ansaldo STR. Sì, lì i timori sono anche poi sul 2012, sulle commesse militari. Ancora, per quello che riguarda i migliori, volete sapere degli energetici, Eni più 1%, Enel più 1,14% e Saipem più 2%, mi manca Enel, vediamo se adesso ve la trovo. E ancora, tra i titoli si è mossa bene Tods più 2,45%. E Luxottica più 2,20% di Unicredit, abbiamo già detto, eccola qua, Enel è invariata, migliori peggiori in assoluto, Zucchi più 20%, beh, il Sole 24 Ore una volta tanto più 9,44%, Società Generale più 6,70%, fronte opposto Safilo, appunto tu lo citavi, e Antichi Pelletieri meno 9,60%. Grazie Eleonora Micheli. Noi restiamo in tema di acquisizione di finanza per parlare appunto di questo shopping francese che continua con grandi e piccoli gruppi italiani. Dunque, chi mi dice che quando do spiegazioni tecniche sono un ignorante, non ci capisco niente, infatti io faccio questo lavoro, non faccio l'operatore di borsa, vi ho solo detto che ClearNet, cioè l'organizzazione che regola gli scambi dei titoli, potrebbe, è un'indiscrezione, decidere di aumentare i margini di garanzia sui BTP italiani, quindi sicuramente rende più difficile anche le vendite allo scoperto, ma da quello che ricordo io detenere BTP costerebbe di più. E comunque meno male che c'è lei che sa spiegare così bene queste cose. Ciao Condi, la Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Dunque, oggi un altro marchio italiano se n'è andato ai francesi, perché praticamente il marchio Brioni, fondato nel 1945, quello che ha vestito tra l'altro James Bond di Pierce Brosnan o Daniel Craig, non sappiamo i dettagli finanziari, però è stato ceduto a chi? A un famosissimo gruppo francese che si chiama Pinot Printemps, detto anche Pepper in gergo, che già controlla i Saint Laurent, Balenciaga, McCartney, Moncler, e già acquisì a suo tempo altri marchi, penso appunto a Gucci, mentre l'altro grande fondo del lusso, cioè Louis Vuitton Moët, si controlla la nostra Bulgari e Moncler e altri nomi. Allora, come mai, insomma, al di là della facile intuizione, tutto questo shopping francese in Italia? Sicuramente, insomma, contribuiscono dei fattori congiunturali, ma anche una debolezza intrinseca del nostro paese anche dal punto di vista finanziario. Tu poco fa citavi appunto la posizione di Louis Vuitton nei confronti di Bulgari, ecco, forse quello, guardandoci un po' indietro, quest'anno rappresenta forse l'unico caso in cui fondamentalmente un imprenditore italiano ha deciso autonomamente di vendere le proprie quote di un'azienda di famiglia, poi a Louis Vuitton, insomma una decisione che è stata fondamentalmente indipendente da quello che è il contesto economico e finanziario italiano, che invece quest'anno con Parmalat e poi con la stessa Edison, operazione che è in corso in questi giorni, ha visto un po' il sistema Italia a mostrare la corda. La Francia lì al di là delle Alpi e non ha appena potuto è scesa e ha fatto shopping. Ciao Condina, allora nel 2006 BNP Paribas ha comprato la BNL, poi Crédit Agricole, sappiamo che controlla Cariparma e Fruladria, Carrefour ha comprato già nel 2000 i supermercati GS, Auchan nel 2004 ha rilevato la catena SMA, Air France ha il 25% di Alitalia, Bulgari a marzo di quest'anno è passata a Louis Vuitton Moët, e Parmalat è andata ai francesi di Lactalis, poi a ottobre la maggioranza di Edison è ai francesi di EDF, e la notizia di oggi riguarda appunto il marchio Brioni comprato da PPA. Qual è la caratteristica di queste acquisizioni? Perché a che avvengono, come ci confermano alcuni ascoltatori, da sempre, scrive un ex direttore marketing della multinazionale L'Oréal Vichy, dicendo che ogni mese dalla sede di Parigi arrivano richieste di segnalare società italiane interessanti nel settore chimico farmaceutico, per esempio. Ma le caratteristiche, c'è? Beh certo, quello che avviene negli anni scorsi, diciamo, era comunque non operazione di routine, ma comunque operazioni legate a dei rapporti sostanzialmente paritari tra Italia e Francia. Quello che è avvenuto quest'anno invece nel caso di Edison e di Parma è qualcosa di diverso, prima di tutto perché ha visto il governo cercare di scendere in campo diciamo per difendere quella cosiddetta italianità, con esiti che poi si sono rivelati fallimentari, e poi perché diciamo l'atteggiamento dei francesi è stato caratterizzato a essere buone da una certa supponenza. Nel caso di Parma la supponenza non c'entra, gli italiani non sono stati in grado comunque di organizzare una cordata che rilevasse la società, e Lactalis non solo se l'è portata a casa, ma poi è riuscita anche a finanziare l'offerta pubblica d'acquisto su Parmalat, che era molto dispendiosa, con i soldi che aveva in cassa Parmalat, oltre 1 miliardo di euro che forse devono andare a qualcuno, devono andare anche agli obbligazionisti italiani, sì, che erano rimasti fregati. Sì, questa, hai ragione, questa non è stata una bella operazione, lasciatemelo dire, perché grazie all'attività di Bondi Parmalat aveva in pancia 1 miliardo di euro che erano stati frutto, no? Dell'attività di farsi ripagare, Bondi si è fatto ripagare dalle banche, ma non solo, e i francesi comprando Parmalat hanno usato questi soldi per finanziare l'OPA, ecco, insomma, al massimo si poteva insistere perché, come dicevi tu, venissero dati ai risparmiatori italiani. Allora, dicevamo, venerdì scorso sul Corriere della Sera, pagina a pagamento con cittadini, amici, fratelli di questa nazione che si chiama Italia e che tutti amiamo, possiamo farcela, ce la faremo. Italiani! abbiamo un po' scherzato, ma insomma l'appello lanciato dall'imprenditore Giuliano Melani, che ha detto in sostanza: possiamo farcela, possiamo dimostrare ai cinesi, non posso leggere tutta la lettera, che siamo ancora un grande popolo, possiamo dimostrare anche agli europei, però il debito lo abbiamo fatto tutti quanti in mille modi, ne abbiamo anche goduto, quindi è giusto che andiamo a comprarcelo questo debito. Non regaliamo i guadagni che si fanno sui BTP in questo momento agli investitori stranieri, compriamoci ognuno 4.500 euro di BTP o BOT l'anno prossimo. Questo basterebbe a soddisfare le richieste d'Italia, che l'anno prossimo deve collocare circa 307 miliardi di euro di obbligazioni. Ed è stata una vera e propria corsa. Giuliano Melani, buonasera, mi sente? Sì, la sento, ma non so per quanto tempo, quindi la consiglio di provarci subito. Mi dica. Ecco, infatti ci sto provando subito. Dunque, sì. Lei ha avuto l'adesione di Corrado Passera, numero uno di Intesa San Paolo, di Federico Ghizzoni, numero uno di Unicredito, Vigni, direttore generale del Monte dei Paschi di Siena, e poi Luca Zaia, favorevole a comprare BTP, Gianni Zonin, Popolare di Vicenza, buona parte della Confindustria veneta. È imbarazzato da tanto successo? No, sono responsabilizzato, sono un po' preoccupato, però che devo fare? Perché in qualche modo sono tenuto a rappresentare questa iniziativa, no? Per cui diciamo c'è un problema di stanchezza, io adesso non mi sto facendo, sono lei mi sta vedendo e sentendo un po' dappertutto, diciamo. Vabbè, ma al di là di questo, però io voglio sapere una cosa: lei aveva promesso che avrebbe comprato ieri, l'appello di venerdì, che avrebbe comprato ieri le obbligazioni BTP, le ha comprate? Pronto? È caduto Melani, non riusciamo a recuperarlo. Intanto sentiamo il commento di Emma Marcegaglia su questo, che ha detto: sì, mi sembra una buona idea, ma questo non vuol dire però un alibi per non fare le riforme. Io li comprerei, sì, però allo stesso tempo richiedo che queste riforme che abbiamo promesso vengano assolutamente fatte. Allora, vedo molti messaggi nel frattempo mentre stiamo cercando di riprendere Melani. I tagli sono da 1.000, 4.500, non si possono comprare. Avete ragione, il ragionamento era che se gli italiani comprassero il debito che è in scadenza l'anno prossimo sarebbero circa 4.500 euro a testa. Melani, ci risiamo? Mi sente? Proviamoci. Le ha comprati sti BTP o no ieri? Come dici? Certo che li ho comprati, mi sente? Sì. Certo che li ho comprati, 20.000 euro, 4,75 di rendimento, 87,73 sotto la parità, quindi ho fatto un grande affare. E quindi le dice 4,75% è un bel rendimento. Ha avuto problemi a comprarli? Perché qualche ascoltatore ci ha detto che ha avuto problemi in banca a comprare obbligazioni, gli hanno proposto strumenti della banca, fondi, obbligazioni. Ieri no, vado un pochino veloce, mi scusi per non perdere la linea. No. Ieri no, ieri è andata benissimo, un minuto e mezzo è fatto tutto. Non è che li avranno già finiti, No, a giudicare dal bisogno che abbiamo noi di finanziare il debito. Senta, l'obiezione, tanto non si preoccupi di andare veloce, se cade cade, sì. La linea, se non cade non cade, ma l'obiezione che fanno alcuni ascoltatori: va bene la proposta, però dare i soldi a questa classe politica non mi va, cioè cambi la situazione e poi posso comprare il debito italiano. Lei cosa risponde? Che appena è finito il problema della situazione di cui parlano ne pagano un po' di più, nel frattempo il debito è già aumentato e quindi gli costa un po' di più, anche se arrivasse al potere la parte preferita da costoro, evidentemente questa parte preferita avrebbe un debito maggiore, non credo gli faremmo un bel regalo. Ma lei l'ha pagata sta pagina sul Corriere con avviso a pagamento? Sì, più di 20.000 euro, IVA compresa. Allora, ma insomma, lei ha speso 20.000 euro per fare un annuncio, cioè cos'è che l'ha mossa? Perché niente da obiettare. Ero impotente, l'ultima notizia a livello di impotenza era che forse, sottolineo forse, il primo ministro dimissionario greco, sottolineo dimissionario Papa Andreu, si aveva indetto un forte referendum. Per colpa del forte referendum noi spendevamo un punto in più di tasso di interesse, oltre al resto. Mi è sembrato troppo, insopportabile. Se la mia vita sta nelle mani di queste notizie qua, allora non mi funziona più bene, cioè non mi piace. E allora ci ho provato. ma era impotente rispetto a questa situazione, ma ne comprerà altri di BTP lei? Ah, se è necessario sì, io adesso sto anche esaurendo le risorse, ora non vorrei passare per quello che tutte le mattine va in banca, compra una pagina di giornale e un tot di BTP, diciamo che penso di aver fatto quello che era giusto fare, come la pensavo. Ma perché non li ha comprati prima? Cioè, Perché non ci ho mai pensato, perché nella mia mente la BTP era, i BTP, i buoni del tesoro, erano strumenti per persone anziane, persone che vanno in pensione, era il debito dello Stato e così via. Non ci ho mai pensato, non ho neanche altri investimenti, sinceramente, cioè a parte delle quote azionarie, ma così insomma, ma non sono un investitore abituale o uno che investe in titoli, quindi non... Senta Melani, lei fa l'imprenditore, però lei scrive in questa lettera: io non ho un comitato, non ho un partito, non ho un movimento. Adesso, vista l'adesione, ci sta pensando? Sì, però come ho detto a un suo collega, a cominciare da lunedì prossimo, fino a domenica ho qualche impegno. No, voglio dire, la battuta è che no, in questo momento non ci sto pensando, ecco. Un'altra cosa mi dice. Non ho neanche tempo per pensarci, a dir la verità. Nel suo appello c'era un passaggio molto bello, secondo me, attenzione, questo debito l'abbiamo fatto noi, ne abbiamo anche goduto, l'abbiamo fatto in mille modi, con l'evasione, con i costi della burocrazia, eleggendo persone inadeguate. C'era uno scarso passaggio, a mio avviso, sul perché siamo precipitati in questa situazione. Non le interessa sapere il perché, ma le dice: troviamo un modo per uscirne? Beh, in questo momento è molto più importante trovare il modo per uscirne. Il costo di questa situazione è devastante e credo anche insopportabile. Se spalmiamo il 5% di spread in più che paghiamo rispetto ai tedeschi, pur avendo la stessa banca centrale e la stessa moneta unica, beh, lei sa che un 5%, questo significa che potremmo anche non pagarlo se fossimo ritenuti affidabili come loro. Beh, lei capisce che il 5% in linea virtuale, teorica, su 2.000 miliardi sono 100 miliardi l'anno. È un bel andare. Senta, è un bel parte del male. Melani, ci sono alcuni ascoltatori che suggeriscono di fare un altro appello e dire: va bene, anche noi li compriamo, a patto che metà dello stipendio dei parlamentari venga fornito in bot. È anche quella una forma di impotenza. Io lo posso fare, l'ho fatto senza che i parlamentari si riducano lo stipendio. Cioè, dire io lo posso fare se un altro fa questo vuol dire che tu hai ridotto la tua potenza, non sei più potente. Se uno in balia della decisione di un'altra, a me sa quanto me ne frega cosa fanno i parlamentari. Però un po' di rabbia ogni tanto sarà venuta anche a lei con quello che leggiamo sui costi della politica, no? No, io non ho rabbia, né sono indignato, sono figlio di mezzadri, contadini, ho studiato, mi sono laureato, va bene così. Noi se in campagna si semina, si annaffia, si coltiva e si spera di raccogliere. Ecco, quindi, no, questo è un punto che mi piace abbastanza, troppo interessante. Lei dice: io non mi indigno perché sono polemiche, se ho ben capito. Ma l'indignazione è... L'indignarsi che cos'è? È un altro dei vari sentimenti di impotenza. Cioè, mio zio, che è di campagna, se deve fare una cosa cerca di farla dall'inizio alla fine, no? Ma non si indigna, cerca una soluzione e fino a che non l'ha trovata ci trova. Poi, certo, ci si può sempre rassegnare. Io ho trovato la cosa più bella di questa vicenda, al di là dei giornali che poi gratificano, ma insomma dopo un po' ci si stanca, è stata le persone. Cioè, se le potessi trasferire la quantità, io da venerdì fino a domenica sera ho parlato sempre e costantemente al telefono con persone di una qualità, di una abnegazione, di un entusiasmo, poi esageravano un po' nei confronti miei con i complimenti, però al di là di questo è stata un'esperienza meravigliosa. Se qualcuno mi sente, 1300 mail, che non so se sa cosa vuol dire, sono 35-40 pagine di mail, cioè sono una cosa allucinante. Sono stato una notte senza dormire e ho fatto male per tentare di rispondere, ho fatto 2 pagine e mezzo, rispondevo a uno, me ne arrivavano 3, era anche frustrante, devo dire, però ho promesso a me stesso che finita questa storia, questa vicenda, cioè vinto. Perché adesso vinciamo, adesso ce la facciamo, adesso non ci ferma più nessuno. Cioè lei dice: ormai l'effetto contagio è tale per cui tutti non vogliono aspettare i tempi della politica. Ma il fatto che il debito poi venga gestito dalla politica, non mi interessa il colore in questo momento. Ma se il debito è nostro, è certo che viene gestito dalla politica, ma la politica lo gestirà secondo... non è uguale per uno, per le persone, dopo aver pagato il debito, dopo essersi impegnato sul debito, il comportamento individuale cambia. Cioè non è che finora si andava al bar e si diceva ci vorrebbero altri politici, dovremmo farli arrestare tutti, non sono buoni a nulla, via, per dire le frasi sì. più buone, no? Questa è una presa di coscienza che fa sì che quando il giardino è tuo te ne prendi cura. Certo. Senta, Melani, viva l'Italia in primo luogo. Complimenti, perché la trovo molto poco ideologico e molto concreto, proprio le sue radici, e speriamo che il suo esempio venga seguito. Chi mi chiede se io l'ho fatto, sì, lo faccio, ho comprato debito italiano, ma non mi sembra una grande notizia. Importante che lo facciano i parlamentari, chi ha la cosa pubblica in mano, e anche migliaia di altri cittadini. E purtroppo in questo momento il nostro debito costa carissimo, 495 punti, il nuovo record dello spread. Ci risentiremo presto, che vorrei capire come andrà a finire la sua vicenda. Grazie a Giuliano Melani, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a tutti quelli che lo seguiranno. Noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.